in primo piano. In questo martedì 4 maggio effettivamente è questa la notizia che prende tutte le prime pagine dei giornali. Solo il Sole 24 Ore, l'apertura chiaramente economica con lo sguardo ad Atene e non solo. Draghi, altri paesi a rischio. La BCE accetta i bond di Atene, migliora il fabbisogno italiano. Ma poi vedete la carrellata di titoli. Il Corriere, Scajola sotto accusa, ora è in bilico. La Repubblica, assedio a Scajola, si dimetta. Attenzione ai titoli del giornale Libero. Il Giornale, Scajola chiarisca o si dimetta. Libero, ora Scajola ci dica, rischio dimissioni. E poi il Fatto Quotidiano, io, gli assegni e i ministri, parla il teste tunisino Idri. Portavo le buste di anemone a Scajola e Lunardi. Spunta anche una lettera a Gianni Letta. Sotto sfratto c'è la foto di Scajola in prima pagina dell'Unità. Insomma, il tema politico del giorno è questo. Stefano Folli a pagina 15 del Sole dice: Scajola ha preso la decisione giusta di andare a parlare in Parlamento, ma nei tempi sbagliati. Ha detto andrò a parlare il 14 maggio, ossia tra 10 giorni, il che significa che le Camere dovranno attendere circa 2 settimane prima di ascoltare il ministro. Scrive Folli, tutto questo è probabilmente un errore. Scajola avrebbe tutto l'interesse ad anticipare i tempi. 2 settimane di attesa non sgonfieranno di certo il caso. E poi scrive ancora Folli, la storia presenta troppe ambiguità, troppi lati oscuri. Qual è la vicenda? Io la riepilogo. L'acquisto nel 2004 di un appartamento a Roma, zona di prestigio, proprio vista Colosseo. Scajola ha detto, io per quell'appartamento ho pagato 610.000 euro e c'è il mutuo ancora a testimonianza. Mentre secondo alcune ricostruzioni giornalistiche ci sarebbero 900.000 euro in più pagati in assegni circolari dall'imprenditore Diego Anemone per conto di Scajola alle proprietarie di questo appartamento. Scajola ovviamente nega questa vicenda, ma che la situazione sia davvero tesa basta vederlo scoprendo vari giornali. Intanto ieri il ministro Scajola, che era in 1 o 2 giorni a Tunisi, è rientrato in tutta fretta. Il ministro torna da Tunisi, mi stanno infangando. Pagina 3 del Corriere della Sera, interrotta la trasferta. Oggi l'incontro con il premier per decidere del suo destino. E a dire la verità, pagina 2 e 3, Marco Galluzzo nel retroscena politico scrive testualmente che insomma non è un caso che il Cavaliere ha già ragionato sul successore di Scajola. Ovviamente non sarebbe un'operazione indolore, si parla addirittura, viene indicato indicato il primo persona Luca Cordero di Montezemolo, che peraltro ha ripetuto un numero infinito di volte di non essere disponibile per esperienze politiche. E poi allora chi? Il nome di Paolo Romani, che è il vice di Scajola, Giancarlo Galan, che si sarebbe offerto, la Lega che vorrebbe quel ministero. Insomma, sui giornali non si discute più di se ma di quando. E questa mattina viene dato per importante l'incontro, il faccia a faccia tra lo stesso Scajola e Berlusconi. D'altronde ancora pagina 4 e 5, Fiorenza Sarzanini, le ricostruzioni, le sorelle che hanno venduto al ministro, ecco le prove degli assegni per la casa. Ancora nuovi documenti bancari, scrive il Corriere, che smentiscono la versione del ministro Claudio Scajola. Le sorelle Beatrice e Barbara Papa, che sono le proprietarie dell'appartamento che è stato venduto, sostanzialmente dicono: abbiamo riconosciuto tutti gli assegni circolari che ci sono stati consegnati il giorno del rogito. Allora, andiamo a vedere per esempio Repubblica, pagina 3, anche qui si parla di dimissioni ormai date per certe. Ora il Cavaliere non scarta le dimissioni, la situazione è diventata difficile. Ieri giornata di telefoni che squillavano ad Arcore, dove c'era Berlusconi, racconta Francesco Bei. Nuovo faccia a faccia tra i due, Berlusconi e Scajola, previsto già per questa mattina. D'altronde questa sarebbe anche la frase che avrebbe detto Berlusconi: la casa è un bene che colpisce molto l'immagine della gente. Ma guardate, basta andare a vedere in questi casi i giornali che segnalano più il termometro della situazione sono quelli più vicini al governo, vale a dire per esempio il Giornale e Libero. Il Giornale, Vittorio Feltri, Scajola chiarisca o si dimetta, caro ministro Scajola, inizia così Vittorio Feltri in prima pagina e mette vari punti. Primo, l'atto notarile che reca 600.000 euro per un appartamento di 180 metri quadri in pieno centro. Sono una miseria per un alloggio in quella zona. Secondo, l'architetto Zampolini, che dice di avere preso 900.000 euro in contanti e trasformati in 80 assegni circolari. È verosimile che lei non sapesse nulla degli assegni circolari? Terzo, prendo atto che lei non è indagato per ora. Mi limito a riportare fin qui quanto risulta dall'inchiesta, invitarla a riflettere sulle reazioni degli italiani di fronte a certi particolari. Quarto, tra una settimana lei andrà dal magistrato e dovrà rispondere in qualità di persona informata dei fatti. Non aspetterei quel giorno a fugare i sospetti. Se non ha niente da dire, oltre a ciò che ha detto a noi che l'abbiamo intervistata, le conviene rassegnarsi, anzi, rassegnare le dimissioni. E questo Vittorio Feltri. Libero, prima pagina, ci sono addirittura su Libero una foto fotocopiato di una degli assegni, degli 80 assegni circolari Deutsche Bank da 10.000 euro intestati a Barbara Papa. Ecco gli 80 assegni incriminati. Ora Scajola ci dica, e anche qui pagina 3, Maurizio Belpietro, vale a dire il direttore, dice solo lui sa qual è la verità, quale delle due opzioni scegliere. Se ha preso 900.000 euro da un imprenditore per pagarsi la casa, l'obbligo di farsi da parte. Se invece non ha preso un euro, ha l'obbligo di difendersi, di combattere a viso aperto. Solo lui quale delle due opzioni scegliere sa. Noi gli suggeriamo solo di non temporeggiare. Attendere 10 giorni che mancano all'interrogatorio sarebbe troppo. Libero parla anche di una, a pagina 6, di una presunta telefonata del Quirinale di Napolitano a Berlusconi in persona per esprimere tutte le preoccupazioni del caso. Il Fatto Quotidiano allarga, oltre a mettere la testimonianza, o meglio stralci del verbale di questo tunisino che era l'autista di Balducci, uno degli definiti nell'inchiesta del G8, che nel verbale dice: consegnai per esempio ad Angelo Zampolini 500.000 euro ricevuti da Diego Anemone per l'acquisto di un immobile dietro al Colosseo. Zampolini mi segnalò la necessità che fossi puntuale perché quel giorno doveva essere stipulato un atto. E poi a pagina 3, con un'inchiesta di Marco Lillo, Il Fatto allarga la questione a un altro politico che era stato citato nei giorni scorsi, vale a dire l'ex ministro Lunardi. Palazzo Lunardi racconta la storia di un palazzo in via dei Prefetti a 50 metri dalla Camera, oggi appartiene alla famiglia Lunardi, nel 2004 fu acquistato dalla famiglia Lunardi, scrive Il Fatto, da un ente religioso nel quale era influente consigliere Angelo Balducci e se ne è interessato proprio Angelo Zampolini, insomma i nomi secondo Il Fatto sono sempre quelli. Questo immobile è stato acquistato, secondo la ricostruzione del Fatto Quotidiano, diciamo nel giugno del 2004, vale a dire a un mese di distanza dall'acquisto invece che Scajola ha fatto del suo appartamento. Insomma, in questa ricostruzione, coincidenze, maxi affare comprando da Propaganda Fide, anche lo stesso notaio del collega ministro, stesso periodo d'acquisto. Secondo Il Fatto c'è da indagare anche su questo palazzo in via dei Prefetti appartenente oggi, scrive il quotidiano di Travaglio, alla famiglia Lunardi. Insomma, case, questo è il tema. Scajola dovrebbe secondo voi dimettersi? Questa è la nostra domanda, questa è la domanda del nostro sondaggio e viene dato, ripeto, da alcuni giornali come, a dire la verità, ieri già si parlava di imminenti dimissioni e per primo il sito d'Agospia attorno alle 4 del pomeriggio aveva dato questa notizia poi non confermata. Qualche giornale rilancia che le dimissioni potrebbero arrivare addirittura in questo faccia a faccia atteso questa mattina tra Scajola e il Presidente del Consiglio. Allora, l'altro tema politico, del quale poi si occuperà anche Oscar Giannino alle 9, è quello delle dichiarazioni di Calderoli sull'Unità d'Italia. Calderoli ha detto: non so se io ci andrò. il tema dell'inizio delle celebrazioni del 150 anni dell'Unità d'Italia. Attenzione, perché oggi i giornali fervono anche su questo tema. Parla Umberto Bossi, a pagina 7 di Repubblica fa un'intervista. Che dice delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia? Mi sembrano le solite cose un po' inutili, un po' retoriche, ma devo ancora vedere e capire. Ci andrà? Questa è la domanda. Diciamo, se Napolitano mi chiama, lo sa che il presidente mi è sempre stato simpatico. Insomma, attende la chiamata di Napolitano, così dice Bossi. Vedremo se ci vado. La mia esperienza, come mia speranza in realtà, la mia speranza è arrivare col federalismo fatto, che sia legge, diventi finalmente realtà. E poi dice Bossi, Cavour era federalista. La promessa e l'impronta federalista sono stati fondamentali nell'unificazione del paese. Poi il re in qualche modo ha tradito, perché ha imposto il centralismo, ma è il federalismo ciò che ci salverà. Insomma, Umberto Bossi dice il federalismo, questa è la vera conquista, e poi è una ricorrenza inutile. Ci vado, se me lo chiede il presidente Napolitano. Attenzione, perché a pagina 7 della Stampa risponde con un'intervista a Gianfranco Fini. Il presidente della Camera fa un'intervista a Ugo Magri, tutta imperniata proprio su il rapporto con la Lega, i 150 anni. Titolo: ma perché il PDL sta a guardare? Fini, che ne pensa di Calderoli? Deprecabile l'atteggiamento di negazione sostanziale dell'unità nazionale, ma non mi meraviglia affatto. La Lega, in fondo, non è un partito nazionale. I sostenitori di Bossi si sentono figli di una nazione tanto inesistente quanto retoricamente declamata, la Padania. E dunque non me la prendo con loro. Con chi se la prende Fini? Col PDL, cioè dice... Cosa fa il PDL? Perché fa così poco? Per esempio, su perché non fa nulla per celebrare l'unità? Avendo contribuito a fondare il PDL, considero molto grave che il partito non prenda sue iniziative per celebrare l'unità, dice Fini. Riguarda per esempio i fondi, 35 milioni stanziati dal governo, sono un'inezia. Qualcuno dice che serviranno a tagliare le erbacce intorno ai vari monumenti di Mazzini e Garibaldi. È la prova della miopia di quanti nel mio partito dicono già stiamo facendo. Insomma, ancora una volta, Fini in questa intervista attacca il proprio partito, l'immobilismo del proprio partito. Dice: io l'ho fondato, io vorrei fare di più per celebrare per esempio l'unità italiana. La Lega fa il suo lavoro, insomma, dice così, possiamo tradurlo, mentre il mio partito che fa? Il PDL perché è un po' immobile su questo tema? Segnalo, solo per chiudere, l'ampia pagina politica prima del traffico, un'intervista a Mercedes Bresso a pagina 9 del Corriere della Sera. Rischia di figurare come quell'ultimo giapponese in trincea, guerra finita, scrive Marco Imarisio, perché Mercedes Bresso, sconfitta da Roberto Cota, leghista in Piemonte, alla regione, che dice: faccio un ricorso per far rivotare in Piemonte. Ma che è impazzita, elezioni da rifare. Perché ci sono state irregolarità nella presentazione di alcune liste, ci sono state delle liste truffa che ci hanno tolto dei voti. Il mio ricorso è legittimo, un diritto costituzionale. Ma scusi, lei non ammette la sconfitta, ci arrivo da sola che si può perdere, ma le elezioni sono state taroccate. Ho informato il PD, che peraltro ha avuto una reazione abbastanza fredda, ma ignorano la vera politica. D'altronde, sentite Mercedes Bresso, d'altronde il PD credo che in Piemonte sia davvero alla fine di una generazione. Ho chiesto appuntamento a Bersani, mi ascolterà, ma credo davvero che il PD si stia in Piemonte sfaldando. Insomma, Mercedes Bresso dice: voglio andare a rivotare, farò un ricorso e credo con buoni avvocati che lo vincerò. Le elezioni regionali in Piemonte sono da rifare. Io ricordo che, cioè, se non sbaglio, il 6 maggio, tra un paio di giorni, ricordavo, no? Vi ricordate qualche giorno fa che c'era uno anche che diceva che faceva un ricorso per far rivotare alla regione Lazio? Non me lo sono perso, adesso con la vicenda Scajola magari è un po' dimenticato, ma boh, spunterà tra due giorni questo ricorso, andremo a rivotare in Lazio, andremo a rivotare in Piemonte, chissà. Come detto, il Sole 24 Ore apre sull'allarme di Draghi. Ieri Mario Draghi parlava alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, governatore di Banca Italia, ma che è anche presidente del Financial Stability Board, ha sollecitato un nuovo patto di stabilità antideficit più incisivo e un vero governo economico dell'Unione Europea. Ovviamente qual è il tema? Prevenire altre crisi come la Grecia. Draghi, altri paesi a rischio, ci vuole un nuovo patto di stabilità, senza correggere gli squilibri si rischiano altre crisi come quella di Atene. E tra l'altro alla vicenda di Atene il Sole dedica molta attenzione, come di consueto, anche a pagina 2. Gli primi aiuti arriveranno a metà maggio, la tranche iniziale di almeno 8,5 miliardi per il rimborso dei titoli di Atene. C'è anche un interessante commento dell'economista Alberto Alesina. In prima pagina si parte da Atene per parlare anche dell'Italia. L'Eurogruppo e il Fondo Monetario Internazionale hanno prescritto alla Grecia un taglio immediato dei salari pubblici del 15-20%, un blocco di assunzione e aumenti salariali di quel settore per almeno 3 anni, un aumento dell'età pensionabile di circa 65 anni dagli attuali circa 55 per tutti. Taglia le pensioni stesse, aumenti dell'IVA, ma non delle imposte sui redditi per non scoraggiare il lavoro, una tassa una tantum sulle imprese, una liberalizzazione di 60 professioni chiuse, privatizzazioni, vendite di proprietà pubbliche, liberalizzazione del mercato del lavoro. Insomma, questo è quello che è stato imposto alla Grecia per dire vi salviamo, ma voi fate questo. Da qui parte Alberto Alesina. E allora, sia chiaro, l'Italia non è la Grecia. La sua struttura economica è molto più solida, va dato atto che il ministro dell'economia ha avuto un merito non da poco, cioè aver evitato che la grande recessione di cui stiamo uscendo si trasformasse in una crisi fiscale. Però, fatte queste premesse, Alesina dice: non basta più proclamare che in Italia tutto va bene, che il nostro sistema di welfare non va cambiato, che la spesa pubblica non si può ridurre, che il mercato del lavoro va bene così com'è, che non è necessario che la partecipazione alla forza lavoro aumenti e si lavori di più e meglio per aumentare la produttività. È servito per dare fiducia nei momenti più bui della crisi, ma ora i mercati non si fidano più ciecamente di qualunque paese dell'area euro. Ecco allora la lezione, secondo il professor Alesina, è cruciale che in Italia si avvii nella direzione che l'FMI ha indicato per la Grecia. Non ci serve certo una dose da cavallo stile greco, ma bisogna dare un segnale ai mercati che abbiamo capito la gravità della situazione di debito pubblico e crescita e che ci stiamo muovendo. Uno dei pochi aspetti positivi della crisi greca potrebbe essere quello di svegliare l'opinione pubblica verso i rischi fiscali che i paesi molto indebitati come il nostro corrono. Insomma, al di là dell'Italia si capirà la lezione greca a livello più generale. Allora, c'è qualche notizia interessante di cronaca, la trovate su tutti i giornali. A Novara una donna islamica è andata in giro tutta coperta col burqa, ha preso 500 euro di multa perché c'è un'ordinanza, la numero 36, ordinanza comunale. Allora, la notizia è ovunque, il dibattito c'è. L'intervista al marito di questa signora la fa il Corriere della Sera, Francesco Alberti. E adesso, signor Ben Salah, adesso è un problema. Non so come pagare i 500 euro di multa. Veramente noi ci riferivamo a sua moglie che va in giro perché lei non le consente di andare in giro a viso scoperto. Assolutamente no, non lo farò. La religione è tassativa. E come farà la signora? Starà chiusa in casa. Sempre, giorno e notte? Se questa è la legge in Italia, che devo fare? Eccolo qui, Ben Salah Brahim, 36 anni, aspetto giovanile, barba curata, vive con la moglie Amel Marmouri, 26 anni, che non esce se non il venerdì, solo il venerdì. E sapete perché esce solo il venerdì? La moglie è tutta velata, solo per andare in moschea. Perché sua moglie è uscita velata? Pensavo che almeno il venerdì, l'unico giorno in cui esce di casa per andare in moschea, le fosse consentito girare col burqa. Io rispetto l'ordinanza, sono qui da 10 anni, non è contro la mia religione, però mia moglie non può essere guardata dagli altri uomini. Sempre dal Corriere della Sera, una citazione è questa: Luigi Ferrarella, a pagina 24, ne parla, è il primo caso di stalking, cioè le molestie, in cui non sono, diciamo, un giudice si è pronunciato non per, che ne so, una relazione finita, in genere l'uomo che perseguita la donna, purtroppo spesso arrivando anche a gesti estremi. In questo caso fa stalking al capo che l'ha licenziato. La vicenda è di una casa farmaceutica, c'è stata una ristrutturazione, una cessione di ramo d'azienda, uno dei dipendenti ha iniziato a minacciare un dirigente dicendo minacce di morte, poi seguendo dove andava, i luoghi che frequentava. Ecco l'ordine del giudice: è vietato per quel dipendente, ex dipendente, avvicinarsi al manager. Il primo caso di stalking, con il giudice che ordina al lavoratore licenziato di non avvicinarsi più all'ufficio del manager, di star lontano da casa sua, di andare via dai luoghi frequentati nel tempo libero dai suoi familiari. Ne parla Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera. La segnalazione conclusiva è il titolo della Gazzetta dello Sport: calcio da pazzi. Ragazzi, ci sono paginate 4 e 5 del Messaggero, per esempio, per quello che è avvenuto domenica scorsa, lo sappiamo, Lazio-Inter, con la vittoria dell'Inter, i tifosi della Lazio che esultavano ai gol dell'Inter perché così lo scudetto probabilmente lo vincerà l'Inter, o comunque era un modo per andare contro la Roma. Calcio da pazzi, minacce di morte al presidente Lotito, Oliviero Bea sul Fatto Quotidiano che parla di calcio vergogna. I politici che hanno fatto interpellanze, interrogazioni parlamentari, politici in campo, Roma truffata, il Siena che ora dovrà affrontare l'ultima giornata l'Inter, il presidente del Siena, mezza Roma, è romanista, dice: noi siamo già in Serie B ma darò 2 milioni di euro ai miei giocatori se battono l'Inter. Insomma, il calcio è impazzito e il campionato non è ancora finito. Trovate questo dibattito davvero sviluppato ovunque sui giornali, la vergogna, qualcuno dice, avvenuta domenica all'Olimpico.